Provate a pensare a tutti i luoghi in cui siete stati in vacanza. Il mare e la montagna. I viaggi organizzati e quelli che avete fatto da soli. L'Interrail, la crociera, il campeggio o la gita in corriera. Ma voi, esattamente dove siete? Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. 16 e 8 minuti. Oggi è giovedì 9 settembre 2010. Questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e io sono qui. Ieri sera, prima che, a parte che c'è questo individuo strano che sta a girare per la radio, Pietro, che ha una scala e si arrampica, mi mette un po' inquietudine. Un'altra cosa, questa roba della verità sembra veramente una condanna. Quando si entra in studio dopo che c'è stato Gigi Garanzini, c'è questa frore nell'aria, credo che sia dopo barba, non lo so, proprio del buon signore piemontese. Non so manco se è piemontese, però è piemontese. Che si rade e c'è questo, sai, questo afrore che si porta dietro, proprio un signore. E niente, gliel'ho detto. Però poi mi sono detto: non è che devi proprio dire sempre la verità, cioè non è che devi dire sempre tutto quello che pensi. Ma ho guardato come se fossi un imbecille. Ma tant'è. Ieri sera, invece, prima che venisse giù il diluvio e una grandinata tropicale qui a Milano, ne sono andato a sentire un signore che parlava alla Triennale, che racconta quello che fa nella vita. Lui si chiama Oscar Brenifié ed è un filosofo, per lo più è un filosofo ed è un educatore, lavora con i bambini e scrive libri per bambini e per adulti, anche se di fatto lui fa filosofia per i bambini. Quello di ieri non era la presentazione di un libro, anche se lui ha scritto 4 libri che sono pubblicati in Italia dagli SBN. Sono dei libroni grandi, pieni di illustrazioni. Quello più famoso si chiama Il libro dei grandi contrari filosofici e ha praticamente analizza 12 verità, di cui analizza la verità e il contrario, per cui vi dico quali sono. Uno è molteplice, finito e infinito, essere e apparenza, libertà e necessità, ragione e passione, natura e cultura, tempo ed eternità, io e l'altro, corpo e mente, attivo e passivo, oggettivo e soggettivo, causa ed effetto. Questo si chiama Il libro dei grandi contrari filosofici e poi ne ha scritti altri 3, non mi ricordo nemmeno come si chiamano, so che ce n'è uno sul bene e sul male che è molto bello. Ripeto, sono per bambini, però non lo sono. È un modo per cercare di insegnarti a pensare. E ieri faceva questa roba qua, cioè non presentava il libro, faceva una sorta di laboratorio per insegnarti a pensare e usava esattamente il metodo del vi dico tutto quello che penso e ve lo dico sempre. È stato molto formativo, soprattutto per me in questo momento, perché ho percepito evidente, ma proprio evidente, in sala, il disagio creato da questo tizio che diceva tutto quello che gli passava per la mente. Vi faccio un esempio. Comincia dicendo, va bene, se c'è qualche domanda da fare, partiamo. Alza la mano una signora, avete presente la signora sui 55, vestita bene, camicina legata fino al collo? L'insegnante. L'insegnante del liceo. Ce l'abbiamo avuta tutti e la incontri per strada, la riconosci. Dica signora, tra l'altro il tutto detto in un italiano che era matà tra lo spagnolo e francese. Dica signora, mi scusi, io sono un insegnante. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Gelo. No, no, no, guarda, anzi, toglimi anche la base. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Non ha capito. Io non ho detto, non voglio sapere tua vita, non mi interessa. Tu vuoi parlare tanto di tua vita, non mi interessa. Voglio sapere solo domanda. E questa di no, ma se non le spiego da dove arrivano. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Non mi interessa tua vita. Qua a Milano tutti vogliono parlare tanto. Ho detto, facciamo domanda, fai solo la domanda. E così è andato avanti praticamente per un'ora. Alla fine era tra il molesto e il divertente. Però l'effetto che c'era in sala era veramente spiazzante. Era a metà tra questo è veramente uno stronzo e questo è un genio. Insomma, se vi capita, questa cosa non accade leggendo i suoi libri, però i suoi libri sono comunque molto interessanti. Ripeto, si chiama Oscar Brenifié. Sono libri per bambini, illustrati da un illustratore francese che si chiama Jacques Despré. Sono pubblicati in Italia da ISBN e a qualcosa, secondo me, servono, anche se non avete scelto di dire tutta la verità. Poi ieri sera, sempre prima che piovesse, sono tornato a casa da Luca, che è l'amico che mi ospita. Luca, adesso poi ve lo racconto meglio, è tornato dalle vacanze e ha... Avete presente, no? Avete presente le vacanze? Ve le ricordate? Ecco, quella roba lì. Aveva quella faccia di quello tra l'allegro e il io so come va la vita che si ha quando si torna dalle vacanze. Però mi ha raccontato che ha fatto, sapete, quelle vacanze un po' avventurose, tipo in barcavela, che quando la racconti, ehi, c'è la gente che mica vado in spiaggia, no? Vado attraverso il Mediterraneo in barca. Quando ci sei, però, non è proprio così divertente. È più divertente quando lo racconti. E infatti lui mi ha detto, guarda, bello, però non lo farò mai più. 800240024. Ci sono stati dei posti, ci sono state delle vacanze divertenti da raccontare, proprio che vi danno materia di racconto quando siete con gli amici, quando siete in famiglia, ma mai più, perché è stata o scomoda da morire, o avete paura. Lui mi ha detto che a un certo punto ha avuto proprio paura durante una notte di navigazione, oppure c'era qualcuno che era insopportabile e veramente mai più. 800240024. Lui non a caso sta leggendo un libro che io mi sono fatto subito prestare, perché ne ho letto dei passaggi e volevo leggerlo assolutamente oggi in diretta, non tutto, ma solo in parte. Il libro si chiama esattamente così, si chiama Una cosa divertente che non farò mai più. L'autore è David Foster Wallace, che è un autore americano contemporaneo che non c'è più, nel senso che non c'è più da 2 anni, e tra l'altro mi pare che è in questi giorni proprio l'anniversario della sua morte, credo il 12, sì, infatti fanno delle letture, mi pare, a Roma per celebrarlo. Lui era quello che credo si avvicini moltissimo ad un genio, nel modo di scrivere, nel modo di analizzare le cose. Questo libro è un piccolo reportage che una rivista americana gli aveva chiesto di fare, cioè gli hanno chiesto di andare a fare una vacanza, cioè andare una settimana su una crociera extra lusso e raccontare quello che vedeva. Per capire, si capisce tutto dal titolo, una cosa divertente che non farò mai più. C'è molto da raccontare e c'è molto da leggere, c'è però un paio di passaggi che sono magnifici, soprattutto nell'introduzione, quando lui spiega che cos'era questa crociera e che cosa ha visto. Ho visto spiagge di zucchero e un'acqua di un blu limpidissimo. Ho sentito il profumo che ha l'olio abbronzante quando è spalmato su oltre 10 tonnellate di carne umana bollente. Sono stato chiamato mister in 3 nazioni diverse. Ho guardato 500 americani benestanti muoversi a scatti ballando l'electric slide. Ho partecipato molto brevemente a un trenino a ritmo di conga. Ho sentito un comico professionista dire seriamente al pubblico, a parte gli scherzi. Ho sentito cittadini americani maggiorenni e benestanti che chiedevano all'ufficio relazioni con gli ospiti se per fare snorkeling c'è bisogno di bagnarsi, se tiro al piattello si fa all'aperto, se l'equipaggio dorme a bordo e a che ora è previsto il buffet di mezzanotte. Ora so che cos'è il Coco Loco. Sono stato oggetto in una sola settimana di oltre 1500 sorrisi professionali. Mi sono scottato e spellato 2 volte. Ho fatto tiro al piattello sul mare. È abbastanza? Non è abbastanza, ce n'è molto di più. Lo trovate in questo libro. 800240024 però, perché sono arrivati anche diversi messaggi sul profilo Facebook Matteo Caccia Io Sono Qui, che raccontano di vacanze fatte belle, belle da raccontare, però guarda, io non la farò mai più. 800240024 oppure 349-238-6666. Non possedere una casa ha dei vantaggi evidenti. Innanzitutto si riduce la mole di tasse da pagare e lì ci si abolisce da sola, senza aspettare l'intervento di nessuno. Inoltre non ci si deve preoccupare delle sue condizioni, cioè se hai una casa ed essa rappresenta tutto ciò che possiedi, in ogni singolo mattone ci sono i tuoi soldi. Se vedi una crepa sei fregato. Cioè è come se il tuo intero patrimonio passato, presente e futuro stesse per andare distrutto. Avere una casa significa vedere ciò che hai e scoprire che può crollare. Se invece hai dei soldi in banca, sì, magari non è economicamente geniale, però non ti svegli la mattina in lacrime come capitava a me se c'era una macchia di umido sul soffitto. Non possedere una casa mi obbliga inoltre a chiedere ospitalità, perché non ho ancora deciso se e dove stabilirmi. Ammetto che la mia grande fortuna in questa situazione è avere amici comprensivi e con case molto spaziose. Ecco, in questo periodo, come dicevo, sono ospite fisso nelle case degli altri. Gente che peraltro aveva nasato questa eventualità per tutto il corso dell'anno scorso. Ascoltavano la trasmissione e capivano che stavo per mettermi sulla strada da solo, con le mie mani. E loro lì, pronti a raccogliermi. Sono una grande risorsa gli amici, eh? E se anche storcono un po' il naso, alla fine un aiuto non te lo negano mai. Non avere una dimora stabile mi è di enorme utilità per capire un po' chi sono. Perché spesso ci si riconosce nelle cose che si hanno, nel nido che ci si è costruiti. Ma io invece adesso non ho né cose né nidi. Quindi devo essere sempre presente a me stesso, sempre. Ecco, per me dire io sono qui non è solo un dato di fatto. È un mantra, è una roba che mi serve a ricordarmi chi sono. Per cui io sono qui, io sono qui, io sono qui. Questa non è casa mia, ma io sono qui. Perché casa mia è dovunque sono io. Sì, che detto così suona un po' strano, però il concetto è questo. E poi questo è importante soprattutto perché l'amico che mi ospita è tornato proprio ieri dalle vacanze. E da oggi la casa mi sembra un po' affollata, anche se essendo casa sua non è che posso dire niente. È tornato con quella felicità che solo i primi giorni dopo il rientro ti possono dare. Quella spensieratezza fatta di braccialetti di cuoio, piedi abbrutiti dal sole, capelli sporchi, camicie aperte, tutto portato con grandissima fierezza. Gli ammenicoli delle vacanze sono oggetti traditori, sono un po' come le abitudini. Ti sembrano perfetti quando sei lontano da tutto, ti fanno sentire che sei un gran figo, ti fanno sentire te stesso. E invece dopo qualche giorno in città ti fanno diventare un deficiente. Uno che va in giro vestito come un barbone, si deve mettere un paio di scarpe, lavare i capelli e togliersi ste collanine di cuoio da hippie, quelle che quando ti fai la doccia ti rimangono umide sulla camicia e te le bagna tutte, quindi tu devi asciugarla con il phon. Un misto di tenerezza e di demenza. Le prime ore però dopo l'atterraggio, quelle sono meravigliose. Sono quelle in cui puoi dire tutto e tutto va bene. E infatti lui dice tutto, parla in continuazione. Diciamo che parla anche un po' troppo. E quanto era bello andare in barca, e quanto era bello arrampicare, e che gran cosa dormire quando le stelle cadenti sei in rada, o svegliarsi avvistando camosci in montagna. Era tutto bellissimo, lui mi dice. Appunto, io gli dico sempre, era. No, I couldn't tell you how the house burned down last night while we vacanze sono un'invenzione geniale. Cioè, di certo servono a qualcuno che ci comanda, perché altrimenti non si spiegherebbe il nostro desiderio di muoverci tutti nello stesso momento e andare tutti più o meno negli stessi posti. Come se questo fosse un'alternativa riposante all'anno passato, in cui vai sempre negli stessi posti e sempre negli stessi orari. Se potessimo vederci dall'alto, un po' come nei film dei cartoni animati, secondo me saremmo veramente ridicoli. Prima tutti fermi e poi tutti in movimento. Prima tutti qui, poi tutti là. E sempre a lamentarsi del casino e della quantità di gente. Magari anche le formiche, nel loro piccolo, si lamentano e dicono: ma quanto è affollata sta strada, ma quanta gente c'è? E magari se si vedessero dall'alto pure loro vedrebbero che intorno è tutto vuoto. E poi ci sono dei momenti in cui i formicai sono fermi, senza nessuna attività. Ci avete mai pensato? Forse le formiche non sanno di essere formiche. Cioè, forse pensano di essere, boh, dei cinesi, tipo. Sì, dovremmo guardarci dall'alto per scoprire dove siamo. Io ci provo. Secondo me ci prova anche il mio padrone di casa. Lo sa di essere insopportabile, con la sua abbronzatura, il suo sorriso perenne. Perché ovviamente non manco mai di dirglielo da ieri. Però glielo dico con affetto, perché alla fine anch'io faccio così. Cioè, l'estate anche per me è un momento di vita sospesa. È un po' come essere su un altro pianeta, dove le regole della fisica non valgono più. Dove se mangi non ingrassi, se non dormi non sei stanco. Dove scalare le montagne non è faticoso. Dove il sole a picco sulla testa non ti rintrona. Dove andare a piedi nudi ti fa camminare meglio. Andare in giro con pantaloni corti e maglietta non ti fa sentire fuori posto. E poi arriva il momento, come sempre, in cui tutto ciò finisce. E anche per me c'è qualche giorno in cui mi illudo di poter vivere in questo modo, ma con le leggi di quell'altro mondo, no? Cioè, di poter dormire quando sonno, bere vino senza avere acidità di stomaco. Voi quanto ci mettete a dimenticarvi che ci furono dei giorni che chiamavate estate. Io ci metto poco. E quando succede non mi ricordo nemmeno come ci si sentiva a stare su una sdraio in spiaggia per tutto il pomeriggio, col solo obiettivo di arrivare a cena con tanto appetito. Ad esempio adesso lo sguardo di chi mi è a fianco basterebbe a fulminarmi se io provassi a fare altrettanto in questo momento, anche solo per 5 minuti. E la vita è questa qua. E allora organizziamoci. Perché non si può mica vivere aspettando che passino in fretta gli 11 mesi che ci separano alla prossima vacanza, no? Oltre a me e al ragazzo degli asciugamani e i due che fanno jogging, qui in crociera c'è soltanto una signora anziana che legge e un signore in piedi sulla sinistra, appoggiato alla balaustra di dritta che riprende il mare con la videocamera. Questo è sempre David Foster Wallace in Una cosa divertente che non farò mai più. È un individuo triste e cadaverico che ho battezzato Capitan Video. L'ho fatto fin dal secondo giorno. Ha una folta chioma di capelli grigi, Birkenstock ai piedi, polpacci molto sottili e glabri, ed è una delle persone più strane della crociera. La gente mostra una certa tolleranza verso Capitan Video, almeno fino alla terz'ultima sera, durante la scorpacciata caraibica di mezzanotte in piscina, quando Capitan Video fa irruzione nel trenino Conga e cerca di cambiarne la direzione in modo da riprenderlo al meglio. E a quel punto e c'è una specie di incruenta ma irritata sommossa contro Capitan Video, che mostra uno sguardo offeso per il resto della crociera, mentre riordina e cataloga i suoi nastri. Perché poi ci sono anche personaggi assurdi quando si fanno queste vacanze che poi magari non vuoi fare più. Io ringrazio Vittoria Mussini che mi scrive che, come immaginavo, Foster Wallace è mancato esattamente il 12 settembre del 2008 e adesso vi do un'altra informazione precaria che credo che verrà ricordato a Roma proprio domenica sera in un reading dei suoi pezzi. 800240024 349 238 6666. Quella vacanza divertente che non farò mai più. Cesare, Ayers Rock, Australia. Bello, ma in culo ai lupi. Anzi, vabbè, Cesare, ai canguri, bello, ma non ci andrò mai più. Agosto 2008, da Milano a Parigi con un risciò della Riviera Romagnola, pesantissimo da pedalare ma con paesaggi stupendi, all'arrivo all'Arco di Trionfo e parigini basiti. Non l'ha scritto, ma Bello, però anche grazie. Sono le 16:27, io sono qui, ma voi probabilmente lì vi starete chiedendo a che punto sarà la borsa. E noi pronti. Io sono qui. La prima vacanza da sola con un gruppone di amici, campeggio a Talamone, 5 femmine e 6 maschi, più o meno. Tutte prese le mie amiche dalla gara a rimorchio facile e io sfigata che facevo finta di divertirmi. Buongiorno, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, io sono qui, sono le 16:34 minuti. Questo è un messaggio che è arrivato sul profilo Facebook che è Matteo Caccia, io sono qui. Stava per venirmi Matteo Caccia avendo tutto, però può capitare, no? Non è che... tra l'altro c'è questa diatriba in redazione se aprire una pagina fan, si chiama così, giusto? Dove spostare tutti, ma forse anche a loro, che gli frega a loro. Sinceramente, in questo momento, manco a me. La vacanza divertente, divertente, ma che non farete mai più. Ce n'è, 800240024, c'è una tipologia di vacanza che è divertente, ma che è molto a rischio. Non la farò mai più. E sono le vacanze... quelle in cui ci devi mettere del tuo, non è che ti spaparanzi sulla sedia a sdraio e ti fai passare questi 15 giorni. Sono quei viaggi in cui tu ti organizzi o non ti organizzi, perché c'è qualcuno che lo organizza per te, e te ne vai, ad esempio, in Nepal a fare trekking. La cintura nera nell'organizzare questo tipo di viaggi è un'associazione che si chiama 21 nel mondo, e al telefono c'è Vittorio Kuczynski, che è il fondatore di 21 nel mondo, giusto Vittorio? Esatto. Innanzitutto benvenuto Vittorio. Grazie. Come stai? Sto benissimo, sono appena tornato da un bel viaggio in Africa, sono stato 25 giorni in Africa, ho riportato a casa un'esperienza fantastica. Senti Vittorio, tu quindi oltre ad averlo fondato sei proprio accompagnatore, come funziona? C'è un accompagnatore per ogni gruppo in questo? Sì, ogni, più che accompagnatore noi lo chiamiamo coordinatore, perché praticamente i nostri viaggi sono semi organizzati, molto è lasciato anche all'iniziativa, all'autogestione del gruppo. Quanti quindi... ne hai fatti tu di viaggi Vittorio? Un mare, sono andato in giro per tutto il mondo per 30 anni. Ma tipo più di 100? Sì, molto più di 100. È la mia professione, fra l'altro passione e professione, quindi... Senti Vittorio, però tu hai capito, no? Oggi io stavo cercando di capire quali sono quelle volte in cui uno fa un viaggio, fa una vacanza che è bellissima da raccontare, però in qualche modo ha sofferto talmente tanto che non ha più voglia di rifarla. A voi capita più che la gente vi richiami per ripartire, ma c'è qualcuno anche che dice, guarda, non fa per me? Ma sì, quelli sbagliati, quelli che vengono con noi semmai solamente perché effettivamente la nostra formula è più economica dei viaggi normali. Un viaggio qualsiasi in Perù o in Africa lo pagano anche 1.000-1.500 euro più di quello che costa viaggiando con viaggi e avventure nel mondo. Però logicamente non è il tutto organizzato, però quelli che vengono convinti poi ritornano sempre. Noi abbiamo un'altissima percentuale di gente che torna da noi, abbiamo personaggi che hanno fatto 50 viaggi con noi pure. Ma in questo, scusami, questa è la cosa che mi incuriosisce di più, cioè che tipo l'umanità che fa questo tipo di viaggi, cioè che tipo di persone vengono per andare, fammi un esempio di due viaggi assurdi, quasi impensabili. Io ho detto trekking nel Nepal, ma mi immagino sia proprio elementare per voi il trekking nel Nepal. Chi va in montagna in Italia può benissimo andarci all'estero. Noi tra l'altro le nostre radici ce l'abbiamo proprio nell'alpinismo, perché abbiamo cominciato a fare viaggi trekking a 30-35 anni fa, abbiamo capito che il mondo in fondo è uguale a quello dove stiamo vivendo noi. Come facciamo un trekking il Monte Bianco o verso il Monte Bianco, lo possiamo fare verso l'Everest in Nepal. Certo, dimmi dei personaggi che ti sono capitati proprio, che hai incontrato, che persone... Che ti dico? Adesso recentemente abbiamo lanciato questa nuova formula che si chiama Safari Camping, no? Dove noi diamo un camion perfettamente attrezzato con tende, sedie, tavoli, cucina da campo, una buona guida e con le tende, come dicevo, e con questo andiamo alla scoperta di un mondo. In particolare porto l'esempio del Safari Australe, che è un viaggio che fa circa 5-6 mila chilometri, traversa Zimbabwe, Botswana, Namibia. Immagino sia una figata. Vittorio, solo una cosa volevo capire, perché io ho questo, formalmente sono un po' prevenuto, però ti devo dire proprio la verità, visto che si fa questo gioco qua. Ho la sensazione che uno che faccia un viaggio come questo sia un po' al limite della disperazione, cioè tipo che abbia o che gli è finita una storia d'amore o che è stato licenziato e dice che faccio, vado in Botswana. Ma va bene, di single ce ne abbiamo tantissimi, anzi allora spinge la gente a cercare di più, la coppia condiziona sempre. Io nei nostri viaggi abbiamo moltissimi single, ma abbiamo anche moltissimi che si incontrano. incontrano perché vivono insieme un'esperienza e condividono. E lì nasce, certo modo. Lasce, lasce l'amore avventuroso. Vittorio, ti devo salutare. Mi dici solo se tu hai fatto un viaggio, una vacanza, non per lavoro, ma una vacanza che non faresti mai più. Sì, sono capitato per sbaglio in un villaggio vacanze. Mi sono morto di noia per 6-7 giorni e poi sono scappato. Vittorio, grazie mille. E buona giornata. Ciao, ciao, alla prossima. Filippo anche sul profilo Facebook mi scrive: per me mai più con animatori attorno. Io ce l'avevo questa sensazione, nel senso che io ho qualche amico che è andato. Di solito le robe sono o provi a partire da solo oppure avventure nel mondo, e poi sei lì a un passo dagli psicofarmaci. 800 24 00 24, andiamo da a Milano, andiamo da Elisabetta. Pronta Elisabetta? Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Sono a Milano, bene, grazie. Tu? Io direi che insomma tiro, per il momento tiro avanti, non è facile ma tiro avanti. Senti, dimmi invece qual è stata la vacanza che tu non rifarai mai più. Allora, non farò mai più una vacanza con una molto bella a fianco, piuttosto sola. Perché, Elisabetta, spiegaci, perché? Spiegaci il perché. Allora, è stata una cosa, no, adesso la metto giù sul ridere, però ha avuto dei segni addirittura drammatici, perché volevo partire, cioè sono partita poi per il Portogallo, conoscevo questa persona molto simpatica. Ma era un'amica? Molta. Era una persona che conoscevo, amica, okay, di amici, diciamo, okay, molto bella, e questo lo sapevo già in partenza. Ho sottovalutato la reazione dei maschi, soprattutto d'estate, soprattutto al mare, di fronte a un fisico da fotomodella e uno sguardo da pantera. E questo mi ha... che non era il mio, naturalmente. Questo mi era chiaro, Elisabetta. Però mi sembra che tu si stia buttando un po' giù. È faticosissimo. La mia autostima sotto le scarpe. E c'è qualcosa. C'è qualcosa. Di essere trasparente. Ok, c'è qualcosa, Elisabetta, che tu a distanza. Quanti anni? Quando è successo? È un 6 anni fa sarà successo. Quindi, con tutto il distacco del caso, c'è qualcosa che tu vuoi dire a questa ragazza che ti è rimasto qui? No, ma no, lei, diciamo che lei non aveva nessuna colpa. Cioè, magari ci giocava un pochettino, lasciami dire un po' questa. No, lasciami dire, infatti, vai, lasciami dire. Un pochettino lo sguardo da pantera lo faceva, perché non è che. Esatto, un po' seducente. Un pochettino la crema sulle gambe abbronzate se la metteva la sera. Sì, un po' dinne un'altra, Elisabetta, dinne un'altra. È veramente bella. Elisabetta. È veramente bella e veramente colta. E altro piccolo particolare, vabbè, dacci il sa numero. Benissimo le lingue. E sa benissimo le lingue. Poi, esatto, non so, spero almeno che le puzzi l'alito. Dopodiché io ero mi sentivo Calimero, capito? Va bene. Per cui l'ultima settimana volevo vicino a me un essere, una ragazza normale, con qualche furuncolo. Perché ovviamente lei pelle lisciissima e morbida. Liscissima, morbida, Elisabetta, pericolosa. Grazie mille, mai più una vacanza con un'amica più bella. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao. Andiamo a Torino da Giacomo. Pronto Giacomo? E là, ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Giacomo, tu sei stato, tu hai fatto una roba che si avvicina un po' ad avventure nel mondo, però fatta in casa. Sì, cioè? Fatta, diciamo, in Europa, via in casa. Cioè cos'era? Niente, con un mio amico, neo diciottenni, mio amico partiti da un'idea appunto del mio amico che è un fan di Giorgio Bettinelli, che purtroppo ora è morto, però ha viaggiato tutto il mondo, sì, in Vespa. Niente, una settimana prima di partire mi ha chiesto se volevo partecipare con lui a questo viaggio in Vespa, andare ad Utrecht su un 125 PX dell'83. Allora, aspetta, facciamo un attimo il resoconto. In due in Vespa in Olanda, giusto, Utrecht? In Olanda, sì, neo diciottenni. Ma quindi, tra l'altro, essendo un 125, facendo strade solo statali? Statali, sì, ma per fortuna, così almeno si guardava un po' il paesaggio attorno, vedevi tutti la gente che ma ti guardava. Ma scusami, Giacomo, ma perdonami, io posso capire l'Olanda, lo posso capire che uno vada in Olanda, ad Amsterdam ad esempio, ma a Utrecht? Utrecht, come... Ad Amsterdam siamo andati solo a riparare la gomma, sì, portandola, certo, dentro un sacco nero. Certo, e invece ad Utrecht? Ad Utrecht c'era la sorella del mio amico che era in Erasmus, per cui avevamo l'appoggio e siamo riusciti a visitare un po' di cose. E questa, roba, e questa roba qua tu la rifaresti? Ma la rifarei con modalità diversa, nel senso, perché noi viaggiavamo 12-13 ore al giorno, facendo poi festa la sera, si smontava la tenda alle 7 di mattina e si partiva per altre 12-13 ore in Vespa. Okay. Per cui con un po' di più calma, magari due Vespe, si potrebbe fare. Giacomo, grazie mille, buona giornata. Grazie Matteo, anche ciao, a te. Ciao, alla prossima. L'ultima telefonata, andiamo a Catania da Giuseppe. Pronto Giuseppe? Pronto, ciao Matteo. Ciao, qual è stato quel viaggio divertente che non farai mai più? Allora, non so se non lo rifarò più, però lo farò in modo differente. Anche perché te. Qualche mese fa sono andato in Inghilterra in moto solo. Sei andato, scusami? In Inghilterra in moto. Ma solo. Da Catania? Sì, sì, sì, sì. Prendendo la nave, spero. Guarda, no, al ritorno sì, perché ero stanco, anche perché avevo avuto un problemino all'altezza di Canterbury, sì. Meccanico, e ho preferito prendere la nave da Genova. Però beh, non male come idea. È stato un bellissimo viaggio, immagino, Giuseppe, ma non lo rifaresti, sì. Lo rifaresti con altro, in un altro modo, hai detto? Sì, lo rifarei in un altro modo, nel senso che sul posto, perché sono stato circa una settimana all'isola di Man, dove ogni anno c'è una manifestazione motociclistica, sì. Ho incontrato naturalmente tanta gente, ma soprattutto una persona, una connazionale, la quale insomma era un po' una... un incontentabile, ecco, perché io l'ho portato in giro in moto e non le andava bene perché c'era freddo, caldo, non allora già mi piace il termine connazionale per definire, poi sto sudando per tutto quello che stai dicendo e spero che tu non arrivi là dove io temo che tu stai arrivando, però lo rifaresti con lei o senza di lei? Senza, però lo rifarei, ecco. Giuseppe, senza. Grazie mille, buona giornata. Grazie a te Matteo. Ciao, alla prossima. Sono le 16:45 minuti. Io sono Matteo Caccia e io sono qui. Ringrazio Tiziano Bonini, ringrazio Pietro Lacorte, Vittoria Mussini e Stefano D'Andrea. Quello che ho fatto oggi è stato preparare la valigia per trasferirmi, perché domani cambio casa. Ho camminato per 20 minuti fino alla radio, ho dato un'indicazione per strada e l'ho sbagliata. Ho ricevuto 7 mail, ma ne ho lette solo 3. Ma giuro che dopo leggo anche le altre. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?